è tutto quel che avrò. È un'altra chance per vivere, è un'altra chance per credere che tutto sia possibile. E resto fuori da ogni burocrazia e non mi metto mica più.